Allora, io questa sera vi presento le quattro poete della libertà, ossia Elizabeth Barrett Browning, Emily Bronte, Cristina Rossetti e Emily Dickinson. Queste quattro donne hanno tantissime cose in comune, sono tutte e quattro poetesse dell'Ottocento, nate nel 1800. Tutte e quattro sono di lingua inglese, tre sono inglesi e solo Emily Dickinson è americana, ma in realtà era una donna talmente eterica che viveva in ogni dove, Emily Dickinson. È affascinante notare le similitudini della loro vita, nonostante non si siano mai incontrate di persona, tutte e quattro hanno letto. Avevano letto e studiato le poesie e gli scritti delle altre donne. E hanno creato quest'aura di sorellanza tra loro, al di là dello spazio-tempo. Tutte e quattro hanno avuto una malattia fisica che è stata, diciamo, diagnosticata come malattia fisica, ma in realtà era proprio un bisogno spirituale di anelito alla libertà, di ricerca della libertà. E tutte e quattro hanno risposto a questa malattia e a questa loro difficoltà, queste loro difficoltà di trovare il loro spazio nel mondo attraverso l'isolamento. Hanno ricercato il loro spazio all'interno. E isolandosi nella solitudine, dentro casa o dentro la bolla familiare, insomma. Ma non per quella che ci hanno detto, per pazzia o per chissà che cosa, ma in realtà era proprio la loro voglia di esplorare la propria anima. E tutte e quattro hanno sfruttato questo isolamento per studiare. Da autodidatte, perché sappiamo che nell'Ottocento l'istruzione non c'era accesso dell'istruzione alle donne, tranne Emily Dickinson, che poi vedremo, di cui vedremo il motivo. Le altre studiarono in casa, aiutate dalla famiglia o per l'accesso alla biblioteca familiare o di parenti, o proprio da autodidatte, insomma. Tutte e quattro sono nate per fare poesia e lo sapevano, e ne erano consapevoli e capirono che anche chi di loro non ebbe, come Emily Dickinson, non ebbe la fortuna, se vogliamo, di vedere il proprio talento riconosciuto nel loro periodo, sapevano tutte che il loro lavoro, le loro parole erano semi importanti. E tranne Emily Bronte, a cui non importava niente di essere letta, le altre sapevano che avevano un messaggio importante da dare. Tutte e quattro vissero nella sorellanza, in tanti modi, sia in quella di sangue, perché hanno avuto rapporti con i loro fratelli e sorelle molto forti e con la loro famiglia, ma riuscirono anzi a creare questo rapporto di sorellanza tra scrittrici, poetesse e artiste, andando al di là di quello che poi Sophie Delavant chiama il conflitto tra le donne, che è proprio tipico del patriarcato, no? E riuscirono a creare, anche nel leggersi e nello studiare le poesie l'un l'altra, a creare questa rete forte, questo sostegno forte tra loro. Tutte e quattro amavano la natura, avevano rapporti con il mondo della natura molto forti, forse tranne Cristina Rossetti che ha vissuto molto tempo a Londra. Ma in Regent's Park anche lei amava camminare e scrutare la natura. Tutti e quattro, in modi completamente diversi, ebbero, sperimentarono quello che era la forza dell'amore in tanti modi. Questo le riporta anche al discorso che facevamo con le mistiche della religione, no? L'idea dell'amore come Dama o come raffigurazione impersonificata, scritta con la lettera maiuscola, come avevamo visto l'anno scorso nelle classi delle mistiche. E tutte e quattro hanno un rapporto con la morte molto, molto forte e non, che va al di là della paura e della chiusura mentale, ma è proprio la visione della morte come un momento di guarigione e di liberazione, in fondo, della guarigione finale, insomma. Quindi queste sono un po' le similitudini che ci portano a creare questo link con le mistiche che abbiamo studiato, in modo particolare con Hildegard di Bingen, con Hedwig d'Anversa, con Margherita Porete, con Mädchen di Magdeburgo. Con queste donne che riuscirono a andare oltre, a crearsi un cammino spirituale, chi attraverso la religione, come fu per le mistiche, chi attraverso la poesia, come queste poete della libertà. Partiamo con Elisabeth Barrett. Vado abbastanza veloce, per così almeno riusciamo a farle tutte e quattro. Elisabeth Barrett Browning è la più anziana. Nacque nel 1806. Nel nord dell'Inghilterra, una famiglia molto ricca, i genitori, i Barrett, furono dei proprietari terrieri da generazioni e avevano terre in Giamaica in cui facevano lavorare gli schiavi africani per la coltivazione della canna da zucchero. L'impostazione familiare è molto rigida, molto tradizionalista, schiavista. E la regola dei Barrett da generazione era quella che il cognome doveva rimanere intatto, quindi soprattutto le femmine, non si, le donne, le figlie femmine, non si potevano sposare, pena l'eredità. E quindi questa cappa familiare si sente già dall'inizio. Elisabeth è la prima di 12 tra figli e figlie. Crebbe nell'agio, nella ricchezza in questa forte sorellanza con tutti i suoi fratelli e sorelle. Mostra il suo genio fin da piccolissima e la sua amore per la poesia. Già a 4 anni leggeva il greco antico e l'ebraico. A 14 anni compose poesie per l'entourage familiare e scrisse un poema in rima. Sempre a 14 anni, è intitolato La battaglia di Maratona, ispirato all'invasione persana della Grecia, insomma 400 anni prima di Cristo. Quindi studiò, amava studiare e si formò proprio da autodidatta, grazie anche alla biblioteca familiare molto ricca e anche ai genitori che, in fondo, nonostante questa atmosfera molto pesante, riuscirono la invogliarono e la spronarono in questo, ne furono molto entusiasti. Allo stesso tempo, sempre intorno ai 14 anni, si ammala, lei e le sorelle si ammalarono, ma lei in modo particolare, non c'era cura per questa malattia, non capirono, i medici del tempo non capirono cosa fu, cosa potesse essere. Le due sorelle guarirono, lei no, e iniziò a prendere oppiacei già a 14 anni per lenire questi dolori fortissimi, perché arrivava anche alla perdita della mobilità degli arti. Quindi utilizzò questi periodi di isolamento per studiare. Non soltanto i classici, ma si innamorò di Mary Wollstonecraft e iniziò a crearsi una forte cultura anche di idee femministe, abolizioniste e un credo religioso tutto suo. E questo in una famiglia tradizionalista, schiavista e molto credente, insomma, possiamo capire quanto potesse essere un problema, insomma, per lei. A 22 anni le muore la madre le morì la madre e arrivò la zia materna a gestire la casa, come successe per Emily Bronte. Ma il rapporto con lei fu molto conflittuale. Nel periodo in cui iniziarono i movimenti abolizionisti, la famiglia subì un crollo finanziario, ma non rimase comunque nell'agiatezza. Dovette abbandonare la casa di campagna per trasferirsi a Londra e qui ebbe un attacco polmonare per cui dovette per un periodo trasferirsi al sud dell'Inghilterra perché i dottori dicevano che era una zona più salubre. E qui inizia la sua carriera di poetessa, di poeta, scusate, perché pubblicò la prima raccolta di poesie e con questa prima raccolta iniziò a farsi conoscere. Tornata poi a Londra, lei inizia lei insomma rimane nel suo isolamento, ma nonostante questo riesce ad avere contatti con quello che è il mondo letterario. Uno grazie a Mary Russell Mitford, che fu una scrittrice dell'epoca molto quotata e sua amica, e l'altro tramite il cugino John Kenyon. In un periodo in cui lei perse due fratelli a lei molto cari e che vide il padre colpevolizzarla, entrò in una depressione talmente forte che queste amicizie, anche se sporadiche, per lei furono molto importanti. Lei stessa dice che sfiorò la pazzia in una delle lettere. Nel 44, a 38 anni, dal suo isolamento uscì un altro insieme di poesie chiamato proprio semplicemente Poems, questa raccolta di poesie fu quella che le diede la possibilità di entrare a pieni voti nel mondo letterario del tempo, perché venne fuori proprio, riuscì con lucidità e schiettezza a mettere davanti, insomma, a spiegare tutta quella che era la sua posizione, la sua visione del mondo, e tra l'altro mostrando tutta la sua cultura. Ci sono poesie, in questa raccolta ci sono poesie veramente di ogni tipo, dalla politica alla filosofia, politica genetica proprio come la intendiamo noi, dalle sue idee di condivisione della ricchezza, dai problemi dell'industrializzazione, la manipolazione del potere, l'uguaglianza tra i sessi, insomma, questa raccolta fu veramente una rivoluzione non soltanto di stile ma anche di contenuti. Tra l'altro, tra queste poesie, due sono dedicate a George Sand, che è sua contemporanea in Francia, dove lei descrive l'ammirazione per questa donna, che per lei è proprio un modello di quello che è la figura dell'androgino, che poi vedremo nel suo romanzo, nel suo poema in versi. La sua popolarità arrivò dappertutto con questi poems, anche in Inghilterra, anche in America, perché furono pubblicati anche all'estero, e la 14enne Emily Dickinson se ne innamorò. Tra queste persone di cui si invaghirono dei suoi versi, ci fu anche Robert Browning, 34enne all'epoca. E divenne un ammiratore di Elizabeth, tant'è che le scrisse e le chiese di incontrarla, e lei lo incontrò nella sua camera perché non era tuttora era ancora in quel periodo in pieno isolamento, e nacque così quello che è uno dei più grandi amori, dei più grandi corteggiamenti della letteratura inglese, e ben riuscito, tra l'altro. siccome si incontravano di nascosto, questo amore durò per pochi anni, cioè non per pochi anni, questo corteggiamento durò pochi anni, nel senso che dopo 2 anni Robert le chiese di sposarla e si sposarono in segreto. Gioco forza che il matrimonio in famiglia non era assolutamente permesso, quindi lei scappò con Robert e nei primi anni 50, dopo la luna di miele a Parigi, si trasferirono in Italia, a Firenze. E proprio a Firenze, dopo il matrimonio, pubblicò un'altra raccolta di sonetti che scandalizzò l'intera Inghilterra. I sonetti si chiamano i sonetti del portoghese e furono scritti proprio durante il periodo dell'innamoramento di questi due giovani sposi. E le portò anche la popolarità, in fondo, perché lei proprio travolgeva e sconvolgeva quella che era la concezione dell'amore del tempo, creando un concetto di indipendenza tra uomo e donna e mettendo proprio in chiaro quello che sono le emozioni delle donne femminili, femminine meglio, perché non erano passive come si soleva al tempo, no, pensare. Da questa unione nacque un figlio quando lei aveva 43 anni e questa fuga dall'Inghilterra per lei fu una liberazione non solo dal giogo familiare, ma anche a livello fisico, nel senso che ebbe comunque una ripresa. E ebbe una crescita spirituale anche attraverso il rapporto spirituale e amoroso col proprio marito. Nel vivere in Italia lei si innamorò della madre italiana, come la chiama lei, la chiama proprio così. Nel 48 i moti rivoluzionari di quel tempo la portarono a scrivere Le finestre di casa Guidi, che è un poema in rima. Meraviglioso, tra l'altro, diviso in due parti, una scritta nel 48 dove lei vede proprio i cortei e la ribellione dei moti rivoluzionari e lei ma manda proprio una profezia dove in quell'anno lei era ancora incinta e si identificò con la madre italica e con questa profezia lei chiede e lancia un futuro di pensatori al posto di combattenti, di coscienza popolare al posto di passione popolare e di guide politiche capaci e virtuose al posto di re e papi, ladri e corrotti. E questo secondo lei è proprio un modo femminile di fare politica, quindi crea la genetica già a quel tempo. Un modo femminile anche di guardare il mondo dall'interno verso l'esterno. La seconda parte invece delle finestre di casa Guidi viene scritta qualche anno dopo, nel 51, quando in realtà il Granduca di Toscana chiede l'aiuto, l'intervento austriaco per ritornare in Toscana. Quindi lei si sentì tradita da quello che era tutto questo movimento rivoluzionario e capì che la sua magia non era abbastanza potente. In questa parte scrive una poesia dedicata ad Anita Garibaldi, che è molto toccante. In realtà il suo romanzo in versi più famoso è Aurora Lei. E anche questo scandalizzò sia l'Inghilterra che l'Italia, in realtà. Scritto quando aveva 50 anni, ci mise 2 anni per scriverlo. È in versi sciolti, quindi non ci sono rime in questo, ma per lei fu l'opera più matura perché riuscì a condensare tutte le convinzioni della sua vita sull'arte, sull'amore, sulla sua professionalità, perché lei in questo lavoro si definì donna, artista e professionista. La trama è molto complessa, però quello che è interessante sottolineare ora è proprio L'ennesimo atto psicomagico che lei fa è proprio una profetessa, io l'ho definita la profetessa della libertà, non a caso, insomma. Quello che lei fa è proprio un atto di magia per denunciare la schiavitù del matrimonio, il giudizio maschile nei confronti delle doti e delle capacità femminili, delle femminili anche, non solo femminili. E crea, cioè, senza distruggere un mondo, lei quello che vuol fare non è distruggere un mondo, ma creare una visione nuova, ed è questa la sua forza, la sua magia. Ed è quella di creare questa visione dove l'uomo e la donna sono due parti della stessa unità. Vi leggo una breve parte di questa di Aurora Lei. Dice: "Non sono poi tanto donna da non essere talora anche un po' uomo. Non dimenticatelo, uomini, d'altronde anche voi siete altrettanto donne, così come le donne sono altrettante aurore." Aurora è proprio la protagonista del romanzo, e non a caso è lo stesso nome di Aurore Dupin, quindi di George Sand. In questo suo scritto, in questo suo atto psicomagico, lei richiama proprio gli artisti a fare un lavoro di ricerca interiore, di quello che è un cammino anche spirituale che va di pari passo a quello di qualsiasi altra persona che lavora in questo mondo duale. Il lavoro, però, il compito degli artisti, dei poeti, è quello di rendere più fruibile quello che è il mondo invisibile e di portarlo a conoscenza della collettività. Perché la sola strada, dice lei, è l'anima, e la vita si sviluppa dall'interno. In questo romanzo, l'altro atto psicomagico che fa è quello di cambiare la visione del padre, che ormai era morto, aveva lasciato il corpo da qualche anno, quando lei aveva 51 anni, e nonostante appunto la repressione che lei visse, non riuscì mai a riconciliarsi con lui in vita, quindi lo fece attraverso la penna e fece una sorta di costellazione poetica, nel senso che cambiò le sorti del proprio padre nella figura paterna di Aurora. Nonostante il miglioramento suo fisico, comunque lei non riuscì mai a liberarsi dai tormenti della malattia, e lasciò il corpo a 55 anni in casa Guidi, tra le braccia del marito. E in questa visione, che ci fa capire che lei riuscì ad arrivare ad un amore fisico e spirituale molto forte. Le ultime sue parole furono beautiful, quindi vide la meraviglia anche nella morte. Passiamo alla seconda, che è Emily Jane Bronte. È la seconda a livello cronologico, in realtà. Lei nacque nel 1818, e quando Elizabeth aveva 12 anni. La vita di Emily Bronte la conosciamo abbastanza bene, la stiamo ascoltando anche in questi giorni sul canale con l'audiolibro della vita di Charlotte, della sorella Charlotte, perché le vite delle tre sorelle sono legate, sono indissolubilmente intrecciate. Charlotte, Anne e Emily come abbiamo visto, le tre facce della dea. Io vedo in Emily la faccia della dea anziana al posto di Anne. E la sua poesia mi ha spiegato proprio il perché. Anche lei ebbe un rapporto molto forte con la morte, non soltanto per la perdita della madre in giovane età, ma anche per la perdita delle due sorelle maggiori, come stiamo vedendo proprio in questi giorni, a causa delle cattive condizioni in cui gli istituti per le ragazze erano gestiti, insomma, erano. ma anche perché trasferitasi a 5 anni ad Haworth, dove il padre era un reverendo, vivevano proprio di fianco al cimitero. E con la loro grande immaginazione, questi 4 ragazzini, perché erano 3 femmine e un maschio, come Anne, la più grande era Charlotte, poi Emily, no, poi Branwell, che era il fratello maschio, Emily è la penultima, e poi c'era Anne, che erano nati a pochi anni l'uno dall'altro. Loro amavano scrivere già da piccoli, nonostante non avessero, la famiglia non avessero grandi risorse economiche, anzi vivevano abbastanza in povertà, soprattutto perché il padre aveva questa visione spartana dell'educazione. Avevano accesso alla libreria paterna, che non aveva logicamente libri per bambini assolutamente, quindi avevano accesso ai grandi classici, anche a studi teologici, politici e del tempo, ma anche versi e poesie, insomma. E tutti e quattro amavano la natura. La brughiera dello Yorkshire, dove vivevano, sappiamo che è molto cruda, ma è un brullo, è un paesaggio brullo. Ma loro riuscirono a creare questa forte, soprattutto Emily, questa forte connessione con la natura selvaggia, perché era selvaggia proprio come lei. Lei riuscì a riportare molto, forse in modo più vivo degli altri, quest'anima selvaggia nei mondi immaginari che loro scrivevano già fin da piccoli, nelle poesie. Lei amava scrivere di notte, e questa caratteristica la collega molto a Emily Dickinson, poi lo vedremo, perché il silenzio e la solitudine, non solo nella brughiera, ma anche nella casa paterna di notte, le dava quelle suggestioni che la natura le portava. Sentire il vento di notte non è come sentire il vento di giorno. Il suo carattere era schivo, volubile, e anche lei era soggetta a improvvise scatti di ira. Non vedeva di buon occhio le prediche paterne domenicali, e quindi si discostò molto dalla visione del padre, che non riuscì mai a riportarla nonostante lei andasse comunque in chiesa, non riuscì mai a riportarla alla sua visione paterna della religione, finché poi lei decise di non partecipare più alle messe. La sua visione era proprio quella di una spiritualità molto più profonda, molto più ancestrale, che non poteva passare per un dogma, e che lei riviveva proprio nella natura e nel rapporto anche con gli animali. Lei viveva meglio con gli animali che con gli uomini. Tutte le speranze della famiglia però furono rigettate su Branwell, il figlio maschio, perché era lodato per il suo talento, e quindi le 3 sorelle, altrettanto dotate, studiarono tra loro, si aiutarono tra loro, e questo poi vedremo che anche per i fratelli Rossetti, fratelli e sorelle Rossetti, fu simile. E quindi le 3 sorelle si spronarono molto tra loro per studiare e per scrivere, si correggevano i componimenti tra loro, si confrontarono molto. A causa appunto dell'indigenza, della situazione economica e del fatto che il fratello comunque doveva studiare fuori, tutti e 3 si cercarono lavoro come istitutrici, e provarono anche ad aprire un istituto presso la canonica, ma per vari motivi questo non fu possibile. Uno dei motivi fu che il fratello entrò in depressione e iniziò a sperperare i soldi della famiglia con, insomma, alcol, droghe e iniziando anche a fare debiti. Questo per Emily fu un motivo di grande crisi all'inizio, ma per tutta la famiglia, perché non riuscirono a... perché vide che né Charlotte né Anne riuscivano a soddisfare quelli che erano il loro benessere, il loro anelito anche a creare e a crearsi il mondo in cui volevano stare. Quindi tutta la frustrazione che lei aveva e tutto il rancore, che lei provò e lo sdegno lo rigettò anche nella sua poesia. Dopo alcuni tentativi di uscire di casa, sia come istitutrice che come allieva in un istituto a Bruxelles per imparare il francese, questo fu dove andò con Charlotte per aprire, insomma, in visione di aprire questo istituto presso la Canonica. Lei si ammalò per allontananza dalla sua brughiera e dal suo mondo, che le erano veramente, erano parte di lei. Quindi ritornò a casa e ad Haworth e si dedicò ai lavori domestici con uno stoicismo veramente ammirevole. Perché lei in fondo si sentiva quasi in colpa perché sapeva che che non poteva fare altro che quello, nel senso che non poteva uscire di casa e lavorare, ma quindi si dedicò con anima e corpo ai lavori domestici e al mantenimento non solo della casa, del padre e del fratello malato, ma anche delle domestiche che ormai erano anziane. Il mondo dell'immaginazione era la sua salvezza, oltre alla brughiera. E vi leggo questa poesia che ne ho scritte diverse, ma questa è proprio quella in cui lei descrive se stessa e il suo mondo in modo veramente preciso e integro. Io sono l'unica il cui destino lingua non indaga, occhio non piange. Non ho mai causato un cupo pensiero, né un sorriso di gioia da quando sono nata. Tra piaceri segreti e lacrime segrete, questa mutevole vita mi è sfuggita, sempre così solitaria dopo i 18 anni, come nel giorno della mia nascita. E vi furono tempi che non posso nascondere, tempi in cui tutto ciò era terribile, quando la mia triste anima perse il suo orgoglio e desiderò qualcuno che l'amasse quaggiù. Ma questi erano i primi ardori di sentimenti poi repressi dal dolore, e sono morti così da lungo tempo che stento a credere siano mai esistiti. Prima si dissolse la speranza giovanile. Poi svanì l'arcobaleno della fantasia. Infine l'esperienza mi insegnò che la verità mai germoglia in un cuore mortale. Era già amaro pensare che l'umanità fosse vuota, servile e insincera, ma peggio fu affidarmi alla mia mente e trovarvi la stessa corruzione. Questi versi furono scritti solo per se stessa, lei non voleva che nessuno li leggeva, ma successe che Charlotte li trovò e ritrovò con essi la speranza di avere anche un'entrata economica per la famiglia. Per lei fu un duro colpo quello che qualcuno avesse letto i suoi scritti, perché era come farsi mostrare nella sua intimità, nella sua nudità. E lei, stoica e così integra e così distaccata dal mondo, era una cosa che sicuramente non voleva. Ma per amore della famiglia e della sorella, e anche della depressione che Charlotte e Anne stavano vivendo, acconsentì e quindi iniziarono a pubblicarono nel 46, nel 1846 un insieme di poesie delle tre sorelle sul pseudonimo maschile. Charlotte aveva 30 anni, Emily 28 e Anne 26. Ma furono i romanzi che fecero più scalpore delle poesie. Le poesie passarono all'inizio inosservate. E soprattutto Cime Tempestose, perché è il romanzo che la critica colpì in maniera molto forte, perché è un romanzo che scuote tuttora. Perché ci scuote così tanto? Perché fece così tanto clamore? Perché Emily parla di rabbia, vendetta, paura, rancore, ignoranza, di violenza, di ossessione, su tutti quei sentimenti e quel baratro che abbiamo tutti dentro di noi ma che nessuno vuole vedere. E quindi leggere di queste cose in un periodo storico in cui insomma, il romanzo gotico, l'abbiamo visto con Anne Radcliffe, era più un passatempo anche commerciale redditizio, lei lo stravolge completamente, lo fa diventare un percorso di ricerca dentro di sé di tutto ciò che c'è. Non c'è solo l'amore romantico, ma c'è l'amore che strazia e annienta le persone, e qui insomma come l'amore mistico, no? C'è l'odio che può cambiare l'animo umano tanto quanto l'amore. E c'è la morte che annienta che unifica, che rende tutto uno, che ci riporta nell'unità. Ed è per questo che chiamo Emily la guardiana della soglia, perché ha questa capacità di vedere tra i mondi e di connetterli insieme. La produzione di tutte e tre le sorelle fu stroncata dai problemi del fratello, che ormai era quasi in fin di vita, e morì nel 48. Pochi mesi dopo lasciò il corpo anche Emily, che si ammalò gravemente proprio il giorno del funerale del fratello, e lei aveva 30 anni. L'anno dopo ancora morì Anne, la sorella minore, lasciò il corpo a 29 anni, e non ci fu la possibilità di portare avanti quello che erano i lavori in corso, perché sappiamo le lettere che Emily aveva in programma un altro romanzo. Probabilmente Charlotte, che ne fu scandalizzata, lo bruciò, probabilmente anche perché Emily volle questo. E sono arrivate a noi circa 200 poesie di Emily Bronte. Passiamo ora a Cristina Rossetti, Cristina Georgina Rossetti. Nacque a Londra nel 1830, quando Emily Dickinson, a 5 giorni da Emily Dickinson, quindi 5 giorni prima di lei. Il padre, Gabriele Rossetti, era un esule italiano che fu esiliato dai Borboni per la sua condotta anticattolica e insurrezionalista, e si trasferì a Londra per insegnare lingua e letteratura italiana, e sposò un italo-inglese, Francis Polidori, il cui padre, anche lì esule, si trasferì a Londra. La famiglia paterna fu abbastanza rinomata, perché il fratello fu medico di Byron e comunque conosciuto nel campo letterario del tempo, perché scrisse anche dei romanzi. La famiglia fu un po' spaccata da quella che era la condizione religiosa, perché la madre era anglicana e molto credente, il padre di educazione cattolica, ma in realtà molto critico su quella che era la condotta della Chiesa. Ultima di quattro, la prima figlia fu Maria Francesca. L'anno dopo nacque Dante Gabriel, l'anno successivo William Michael, e poi l'anno dopo, a un anno di distanza l'una dall'altro, Cristina. Per decisione della famiglia, la madre educò le figlie femmine e il padre i figli maschi, che comunque ebbero accesso all'istruzione attraverso il college, mentre le due figlie no. La casa dei Rossetti era un luogo di incontro di tutto italiano, di esuli, artisti, scrittori, che passavano spesso per la casa, in questo clima molto, molto italiano, se vogliamo. No? Tra una discussione politica e una declamazione poetica. Il padre era un esperto e scrisse diverse critiche su Dante. Tutti e quattro i figli furono anche loro molto precoci. In particolare Cristina ancora non sapeva scrivere, ma già dettava ai suoi fratelli e a sua madre dei versi. Fu molto sensibile fin da giovane e la sua fantasia fu molto stimolata da questo clima familiare. Se il suo carattere da ragazzo, dell'infanzia fu molto vivace e fascinoroso, tra i 12 e i 17 anni subì una metamorfosi inaspettata e quasi repentina, per diversi motivi. Il primo fu proprio che a 12 anni il padre si ammalò e perse la vista, ebbe un problema cronico, una bronchite cronica per cui non poté più lavorare e la famiglia dovette iniziare ad arrangiarsi perché già erano scarse, le finanze erano scarse. Se William e Maria, i due fratelli, fratello e sorella, iniziarono a lavorare, e quindi Maria come istitutrice e William come esattore, Dante continuò il suo percorso di artista, a volte anche facendo, insomma, non dando cura a quello che era il lavoro che c'era dietro per mantenere i suoi studi in tutta la famiglia. Ma Cristina era dodicenne e non era ancora in età per lavorare, quindi si ritrovò in casa da sola col padre malato ad adempiere ai lavori domestici e si richiuse nella religione e nella scrittura. Un po' anche l'educazione del periodo. L'educazione femminile, delle femmine in modo particolare, in epoca vittoriana, era molto rigida e opprimente. Un altro fattore che può essere riscontrato di questo cambiamento è anche il periodo. La corrente religiosa anglicana in quel periodo subì una forte radicalizzazione a cui la madre, la sorella Maria e Cristina aderirono pienamente, quindi anche l'idea del sacrificio nella religione lei lo portò proprio nel fisico, nella vita quotidiana. Quello che lei visse per tutta la sua vita come un conflitto molto forte fu la sua passione per la letteratura e per la poesia, con questa sottomissione e questo sacrificio religioso che la sua anima le richiedeva. Scrisse in una sua poesia: "Non essere la prima, quanto è difficile imparare quella lezione di tutta la vita del passato, linea incisa su linea e colpo su colpo, ma grazie a Dio alla fine imparata. Così ora, con pazienza, possiedo la mia anima anno dopo anno tedioso, contenta di occupare il posto più basso, il posto che mi è stato assegnato qui." Questa è la sua visione del suo posto nel mondo, a livello religioso, insomma, ma non solo. Si chiuse sempre di più e l'unica sua, diciamo, boccata d'aria in questa vita di reclusione fu la situazione familiare perché il fratello lasciò gli studi accademici e continuò da autodidatta con lezioni private a fare studi artistici e creò con degli amici dell'Accademia la Fratellanza dei Preraffaelliti, che era un gruppo di giovani artisti che spesso si trovavano anche a Casa Rossetti, dove lei diventò un po' anche il centro e il riferimento del ramo del ramo poetico, insomma, della branca poetica. È ricordata in realtà più come modella, ma si sa che insomma, la storia patriarcale ci ama insomma, sminuire così il talento delle donne, così come è successo proprio a Cristina come poeta. E come ci dici, racconterà tra l'altro la prossima volta Maria Emilia, perché lei fa la stessa cosa che tu stai facendo in letteratura, lei la farà con la pittura, riscattando quattro grandi pittrici che la storia ufficiale ci tramanda solo come modelle. Quindi ne abbiamo per un bel po' di questo lavoro di riscatto. Tra l'altro, il giudizio oppressivo del fratello Dante su Cristina fu proprio fu talmente forte che per lei a volte fu difficile riuscire anche a trovare il piacere di condividere i propri scritti, anche se sapeva di essere di essere nata per scrivere. Tra fratelli e sorelle, loro, come le sorelle Bronte, si confrontavano, si criticavano anche animatamente a volte. Ma il carattere di Dante è molto simile a quello di Branwell delle sorelle Bronte, sì, sorelle fratelli Bronte. E tra l'altro, proprio all'interno di questa fratellanza, di questa confraternita, Cristina trovò il primo amore, perché si fidanzò con questo pittore, con questo giovane pittore. Lei non aveva ancora 20 anni. Ma da subito mise in chiaro che la loro relazione non poteva funzionare perché lui era cattolico e lei anglicana. Lui fece un tentativo di convertirsi all'anglicanesimo, ma tornò sui suoi passi e lei entrò talmente tanto in depressione che annullò il fidanzamento. E finì così la sua idea di amore. In quegli anni scrisse il suo poema più famoso, che è Il mercato dei folletti e altre poesie, pubblicato nel 62 quando lei aveva già 30 anni. In quel periodo, per lei, il periodo dei 30 anni per lei fu un po' un cambiamento, perché iniziò ad ampliare le sue conoscenze, tra cui alcune poete e scrittrici, e iniziò a lavorare come volontaria in un istituto religioso che dava rifugio a delle ex prostitute, e incontrò anche un altro possibile marito, diciamo, che però rifiutò per lo stesso motivo, perché non poteva ritrovare in lui quell'unione spirituale che lei ricercava anche nell'unione fisica. E quindi questo corteggiamento durato qualche anno finì. Lei si dedicò quindi alla madre, settantenne, alla cura della casa e alla scrittura, e solo in questo poemetto del mercato dei folletti lei riuscì un po' ad uscire da quello che è il suo corpus poetico, anche molto religioso, se vogliamo. E lei de descrive quella che è una fiaba allegorica in versi, con una musicalità eccezionale, e fa quella che è una vera e propria critica alla società patriarcale, su diversi livelli, perché in realtà si può leggere in diversi modi. Se da una parte elogia la sorellanza proprio come unico modo di uscire da quello che è l'oppressione patriarcale, dall'altra sembra quasi parlare del peccato originale, facendo riferimento proprio a Eva, e della soddisfazione di un desiderio che crea dipendenza, che quindi prima l'anima della sua vitalità. Quindi ci sono diversi livelli di lettura che rendono proprio affascinante questo poemetto, grazie al quale venne pubblicato l'anno dopo la dipartita del corpo di Elizabeth Barrett Browning, e questo proprio le valse il titolo di sua erede, quindi iniziò a essere conosciuta come poeta. Iniziò a viaggiare, fece pochi viaggi, uno in Francia e uno nel nord Italia per conoscere la patria paterna, e successivamente si dedicò a scritti più religiosi e anche a poesie per bambini. La sua salute però dai 40 anni in poi divenne sempre peggiorò, perché ebbe un attacco cardiaco e le fu diagnosticata una malattia, insomma, che è una disfunzione della tiroide che deformava anche i tratti somatici, quindi subì anche un cambiamento proprio della sua fisionomia, e si attaccò ancora più fortemente alla religione, si ancorò proprio alla religione. La storia del fratello Dante è proprio uguale a quella di, cioè uguale, molto, è parallela a quella di Branwell Bronte, perché anche lui insomma anche lui si lasciò andare ai debiti, all'alcol e all'oppio per diversi motivi, tra cui anche quello che per lui era una sorta di fallimento della sua carriera professionale, e si attaccò soprattutto a livello emotivo a Cristina, così come Bramwell si attaccò a Emily. E lei, anche come Emily, fu l'unica a non giudicare il fratello, nonostante insomma tutta la sua condotta. Comunque lei era malata e lasciò il corpo a 61 anni nel 1891 di tumore al seno. Il fratello William fece quello che fece Charlotte Bronte con le sue sorelle: raccolse le lettere, scrisse le memorie di famiglia, curò alcune raccolte, ma fu molto criticato perché fece dei tagli, delle modifiche che distorcevano il significato originale, insomma. Passiamo all'ultima poeta, che è Emily Elizabeth Dickinson, che come abbiamo visto nacque 5 giorni dopo Cristina Rossetti, quindi nel 1830, però in America, ad Amherst. Quando nacquero Emily Dickinson e Cristina, Elizabeth Barrett Browning aveva 24 anni e Emily Bronte ne aveva 12. Il padre, Edward Dickinson, fu un avvocato di fama, molto conosciuto, che poi entrò nel congresso americano, e anche egli uomo molto austero e severo. La madre, invece, Emily Norcross, nata da una famiglia ricca di contadini, sostenne da subito l'educazione femminile, quindi favorì l'entrata di Emily e della sorella minore Lavinia nell'Accademia di Amherst, quindi loro furono le uniche tra le quattro a poter studiare in una scuola, insomma. Il fratello maggiore, Austin, anche egli studiò nell'Accademia di Amherst che fu fondata dal nonno, e permise a tutte e tre di approfondire quello che per Emily fu un amore fin da subito, che era quello della botanica, tra le altre discipline. A 15 anni scrisse un erbario, nel senso che seccò, raccolse e catalogò erbe e foglie e piante spontanee, ed è ancora anche visionabile online questo erbario. Questo mette in chiaro da subito la sua meticolosità e la sua minuzia nel cercare dettagli, e la sua sensibilità e empatia che lei aveva per la natura, ma anche nei rapporti umani, perché fin da ragazza visse molto intensamente il rapporto con le altre persone, soprattutto quello con i fratelli, il fratello e la sorella, ma anche quello con Susan, che fu una grande amica di famiglia, nata nello stesso anno di Emily, e che fu la destinataria di molte lettere, di molti versi di Emily. Il rapporto che ebbe con lei fu molto particolare perché lei a volte lo descrive come una sorta di dipendenza e adorazione. Se quello con la sorella Lavinia era quasi una guardiana per Emily, invece quello di Emily con Susan fu un rapporto veramente di affetto e di amore profondo, proprio di una sorellanza molto forte, come quella di cui parlavamo in questi giorni. E le tre crebbero insieme leggendo i romanzi delle sorelle Bronte, le poesie di Elizabeth Barrett Browning. Emily Dickinson aveva in casa tre ritratti, uno di Elizabeth Barrett Browning, uno di Emily Bronte e uno di George Eliot. Quindi è indubbio il fatto che lei apprezzasse queste scrittrici. Finiti gli studi, cercò di entrare in un seminario femminile, ma l'atmosfera opprimente e la rigidità dell'impostazione religiosa non facevano per lei. La portò a debolezza, malattia, iniziò un periodo di depressione, tanto che poi tornò a casa. E in questo periodo conobbe uno studente di legge che era un apprendista presso lo studio legale del padre, che l'aiutò a scrivere, la spronò a scrivere perché iniziò a scrivere versi e lui lo dò. E le consigliò molte letture, sia classiche che contemporanee, anche di poesia. E quindi lei iniziò, tornata appunto da questa esperienza nel seminario femminile, iniziò a studiare da autodidatta e chiese al padre di poter studiare di notte e scrivere di notte, perché era il momento in cui la casa era più tranquilla e c'era il silenzio con il quale lei poteva lasciarsi andare a un'introspezione molto più profonda. Il suo rapporto con la natura era anche per Emily Dickinson era molto forte, amava passeggiare e scrivere in versi quello che lei vedeva, quindi da subito qualsiasi cosa lei vedeva e sentiva lo metteva in versi. Il suo rapporto con la scrittura è proprio un rapporto di amore. In quel periodo anche in America ci furono le ondate del Grande Risveglio che furono dei movimenti di evangelizzazione protestante molto forti, a cui tutta la famiglia aderì tranne lei. Iniziò quindi ad avere anche dei problemi col padre, nel rapporto col padre con questo, e non capiva la sottomissione anche della sorella di Susan a questi dettami. Lei si definisce pagana, in una lettera proprio dice non sono che una pagana. E quindi nella solitudine è l'unico modo in cui trova la propria anima e il proprio modo di coltivare il cammino verso la propria anima. La natura diventa parte della sua religione, anche lei parla di elementi naturali spesso scritti con la maiuscola. Lei scrive, il suo modo di scrivere è molto particolare perché non scrive frasi di senso compiuto, sono poesie molto brevi e molto concise, con trattini, virgole, maiuscole, minuscole, messe dove lei ne sentiva il bisogno, ma che non erano consone per una. Non erano capite dai suoi contemporanei. Lei era proprio canale, quindi le canalizzava un po' come Hildegarda, secondo me, canalizzava questi messaggi e li scriveva. Negli anni 50 dell'Ottocento, la sua amica Susan, dopo anni di corteggiamento col fratello segreto, si sposarono. E per Emily fu un periodo di grande disagio nel rapporto con Susan, che per molti fu visto come una gelosia. In realtà, secondo me, Emily conosceva bene la condizione delle donne nel matrimonio e non si aspettava questo, non voleva questo per la sua amica. Nelle sue speranze anche di ragazza, nei sogni di ragazze, non era questo quello che lei voleva per sé e per lei. Ed è chiaro in alcune poesie dove lei descrive in maniera veramente lucida quello che è la sua idea del matrimonio, cioè lo chiama un calvario. Il riavvicinamento con Susan avvenne negli anni successivi, quando tornarono a vivere anche vicine di casa. Il padre entrò nel congresso e riuscì a acquistare quella che era la proprietà di famiglia, dove poi si trasferirono definitivamente tutti i Dickinson, e vicino si trasferirono anche il fratello e i novelli sposi, insomma. In questa fattoria di famiglia Emily iniziò il suo isolamento. I suoi rapporti furono prettamente, quasi esclusivamente epistolari, e anche le visite che ricevette furono spesso furono spesso brevi, ma anche lei non voleva uscire dalla sua camera, quindi da sopra le scale parlava con chi arrivava sotto le scale senza neanche vederlo. E conobbe il reverendo Charles Wadsworth, che era un conoscente di famiglia, per cui nacque un amore platonico, ma irrealizzabile, perché in realtà lui era già sposato. In realtà, secondo me, anche questo fu un amore platonico, ma lei cercava una guida spirituale. E grazie a questo reverendo, lei capì che le sue poesie erano importanti, e che la sua missione di poeta era una chiamata. Grazie a questa maturità, questo incontro con quest'uomo, lei matura molto a livello letterario, e il suo turbamento, anche amoroso, fu molto prolifico in realtà. In quegli anni scrisse moltissimo, nonostante lui dovette poi trasferirsi con la famiglia. E proprio di questo periodo è l'inizio della corrispondenza con un critico letterario, Higginson, che non la capì mai, perché fu colpito da questa donna che era ironica, sfuggente, molto talentuosa, ma non capì mai il suo talento in realtà. Ma lei si riferì a lui per avere dei consigli, per ricevere dei consigli sulla pubblicazione dei versi. Lui fu molto chiaro sul fatto che il suo modo di scrivere era talmente diverso da quello dell'epoca, che le chiese di fare quelle che lei chiama delle operazioni chirurgiche, e lì comprese che lei non avrebbe mai snaturato la sua opera, e quindi non avrebbe mai pubblicato se questo l'avrebbe compromessa, e avrebbe compromesso la sua autenticità. Lei in fondo non cercava la fama, lei sapeva che era importante per quello che scriveva, sapeva che era chiamata a questo. Gli anni 60 dell'Ottocento sono gli anni della guerra di secessione, e lei fu colpita da quella che era proprio una devastazione della vita umana. Questo fu il momento proprio decisivo in cui lei entrò in isolamento totale in casa sua, e tra l'altro un nipote, figlio di Susan e Austin, lasciò il corpo precocemente per il tifo. Lei, la sua salute fu sempre più cagionevole, e finì le sue passeggiate all'aperto, si chiuse in casa, si vestiva solo di bianco, che tra l'altro è il colore che riflette tutti gli altri, e scelse di stare in questa clausura volontaria. Scelse se stessa, secondo me, nonostante questa scelta fu vista al tempo e viene vista e giudicata ancora come la scelta di una pazza, no? In realtà lei era l'unico modo che lei aveva per protestare e per dire: io non voglio vivere in questo mondo e non voglio stare a queste regole, a questi dettami morali che non capisco. Quindi con il suo isolamento lei non voleva essere esente dai fatti della vita, anzi lei era molto attenta a quello che succedeva al di fuori, lei cercava il suo spazio sacro. Quando aveva 44 anni, il padre lasciò il corpo improvvisamente e l'anno successivo la madre fu colpita da una paralisi. E questi che la costringeva a letto, quindi lei e Lavinia insieme, anche Lavinia non si sposò mai come Emily, si presero cura della casa e si presero cura l'una dell'altra anche. Lavinia fu proprio una guardiana per Emily, perché lei non usciva di casa. Quello che era la visione dell'amore per Emily fu molto scosso dalla decisione del fratello di intraprendere questa relazione extraconiugale con una scrittrice e musicista di Amherst. Emily non solo disapprovò, ma fu sconcertata da quella che era la condizione della sua carissima amica e moglie del fratello. Il suo amore, la concezione dell'amore per Emily era così sublime e sacro che lei in realtà lo visse tramite le parole. E ci sono delle lettere, delle poesie molto audaci che scrive quando lei ha già 40 anni, probabilmente indirizzate a un amico di famiglia che si dice che fosse 20 anni più anziano di lei, ma in realtà non si sa se probabilmente il rapporto fu solo epistolare, perché lei già non usciva di casa, aveva problemi fisici e spasmi e perdite di coscienza, che proprio quelle tipiche delle mistiche, tra l'altro. Quindi non si sa se ebbe veramente una relazione con quest'uomo, ma ad ogni modo fu molto ostacolata dalla sorella. Di lì a pochi anni lasciò il corpo a 56 anni, tormentata da quella che fu chiamata come una malattia renale. E le ultime sue parole furono called back, richiamata. A pochi giorni dopo la sua dipartita, la sorella, Lavinia, bruciò tutte le sue lettere come Emily le aveva chiesto e trovò inaspettatamente un bauletto che conteneva circa 1800 poesie. E tutte rilegate, copiate a mano in bella copia, e da queste poesie poi da lì nacque tutta la confusione che c'è tuttora tra gli esperti e le esperte sulla traduzione, perché lei è proprio intraducibile, è proprio una sibilla, perché la sua poesia è un oracolo. È enigmatica, è ironica, è visionaria, è eterica, lei proprio indaga quello che è l'animo umano. E concludo con una riflessione che ho fatto, perché in realtà Virginia Woolf fu proprio quella che mise insieme già un secolo fa tutte queste quattro donne insieme. Scrisse per la vita di Elizabeth Barrett Browning tramite la biografia del suo cane. Infatti il libro si intitola proprio Flash, biografia di un cane, e racconta la vita di Elizabeth Barrett Browning tramite gli occhi del proprio cane. Scrisse dei saggi su Emily Bronte, elogiando il suo genio poetico e il suo spirito ribelle. scrisse di Cristina Rossetti un saggio al centenario della sua nascita nel 1930, che si intitola I am Cristina Rossetti, e l'unica di cui non ho trovato parole scritte da Virginia è Emily Dickinson, ma sono certa che lesse le sue poesie, che Virginia Woolf lesse Emily Dickinson, e quello che la rende sorella con Emily Dickinson è proprio la minuziosità nell'andare a ricercare la profondità dell'animo umano e l'approccio sciamanico alla scrittura che entrambe ebbero. Quindi Virginia fu proprio il legante tra queste donne che non si conobbero mai in vita, ma che ebbero delle vite così simili e così importanti.